e strazia a pensare che quelle come la Giacomina vengono massacrate quando sono ancora in tenera età, messe in forno con contorno di patate, senza pensarci troppo, un po' perché è tradizione, ma un po' anche banalmente per mancanza di fantasia o semplicemente perché il supermercato pratica degli sconti speciali. Bassa padana, facciamo adesso un grande salto e spostiamoci in Cina per raccontarvi la storia di un orso chiamato Pizza, rinchiuso da anni in una gabbia di vetro all'interno di uno zoo di Guangzhou, per consentire ai visitatori di scattarsi dei selfie con l'orso sullo sfondo. Lo zoo si chiama Grand View ed è stato soprannominato lo zoo più triste del mondo. Insieme all'orso polare ci sono anche dei giovani beluga, 5 trichechi, un lupo e alcune volpi artiche. Le foto angoscianti di questa creatura, appunto l'orso polare Pizza, hanno fatto una grande impressione sui social network perché rendevano bene l'immensa sofferenza di un gigante rinchiuso in quei pochi metri quadrati, in totale solitudine ma soprattutto in totale assenza di arricchimenti ambientali, quindi privato dell'acqua in cui nuotare, dei pesci da cacciare, ridotto a una non vita, senza emozioni, senza imprevisti, senza incontri, senza odori, senza curiosità e senza avventura. L'associazione animalista anglo-cinese Animals Asia ha raccolto questa indignazione dalla rete e ha raccolto anche 500.000 di firme in una petizione che chiede la liberazione dell'orso o almeno il suo spostamento in un luogo più idoneo alle sue necessità etologiche. La richiesta è stata raccolta da un parco dello Yorkshire in Inghilterra che ha creato un habitat adatto per orsi polari e che ha organizzato proprio per recuperare alla vita selvatica gli orsi che sono stati tenuti in cattività, con molti ettari a disposizione per correre e laghi profondi in cui nuotare. Ancora non sappiamo se chi detiene attualmente l'orso sarà disposto a cederlo, per questo è importante continuare a firmare la petizione di Animals Asia e che ha raggiunto le 585.000 firme. Pubblicheremo il link della petizione nel nostro blog restiamoanimali.it. La Nippon Airway ha effettuato un volo sperimentale con 87 passeggeri e 44 cani al seguito che hanno viaggiato in cabina durante un volo da Narita a Kushiro nell'Hokkaido. I cani sono stati tenuti in gabbie fissate ai sedili lato finestrino e un veterinario ha accompagnato tutto il tour senza che il suo intervento si sia mai reso necessario. Il volo è stato un successo, addirittura, anziché creare problemi, la presenza a bordo dei cagnolini ha ridotto i livelli di ansia dei passeggeri bipedi. Quindi la Nippon Airway inizia con l'introduzione del via libera ai pet a bordo senza indugi e limitazioni. Una pessima notizia ci viene dalla Norvegia sul fronte degli animali selvatici. In Norvegia vivono solo 68 lupi, ma il governo cede alle pressioni degli allevatori e decide di autorizzare l'uccisione di 47 esemplari, i due terzi. Pensate, si parla di 68 lupi in un territorio di 400.000 chilometri quadrati. Questo a dimostrazione del fatto che il mondo zootecnico è veramente il peggior nemico della fauna selvatica. E vi visto il periodo dell'anno, non possiamo non parlare di caccia. È partita la stagione di caccia con le solite tragicomiche. In Liguria, multa pecuniaria a chi disturba i cacciatori e possibilità di foraggiare i cinghiali per sparargli meglio. In Piemonte, dopo 20 anni, si torna a sparare ad anatre e altri uccelli migratori. A Santo Stefano di Cadore, un 49enne precipita in un dirupo, fratturandosi in più punti. Ovviamente un cacciatore, occorre l'elicottero per rintracciarlo e recuperarlo. A Sinalunga, in Val di Chiana, un cacciatore 75enne muore cadendo da una postazione per colombi. A Grottaglie, Taranto, un 47enne cacciatore fulminato mentre fissava richiami per uccelli a un palo di alta tensione. A Venezia, un cacciatore si è ferito a un piede con un colpo partito accidentalmente dal suo fucile. Si tratta di un cacciatore di 63 anni di Caorle. I media però non accennano ai danni alla fauna, che restano come sempre incalcolabili. Ci sembra l'occasione giusta per consigliare una lettura a riguardo. Si tratta di un libro che si intitola Settembre sarebbe un bel mese. L'autrice è Paola Canozzi. Editore Marco Saia, il libro è uscito nel 2014, sono 96 pagine, lo trovate in libreria o in vendita su internet. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Anche questa volta ricetta a tema con la puntata, e visto che, ahimè, si parla di caccia, ho rispolverato l'ormai famosa ricetta delle cartucce a salve. Ma prima di passare a dosi e procedimento, sapendo quanto i cari personaggi armati di fucile siano superstiziosi, vorrei augurar loro buona caccia. La ricetta delle cartucce a salve, ovvero sia carotine stufate a limone e timo. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di carote baby, un limone, timo, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero, uno spicchio di aglio. Lavate le carote baby, oppure se usate lo spiralizzatore per fare gli spaghetti di carote, potete utilizzare gli scarti cilindrici. Tritate l'aglio finemente e fatelo rosolare in un tagame con olio extravergine di oliva, assieme al timo e alla scorza del limone tagliata a fili sottili. Aggiungete le carote e il succo di limone e coprite con acqua o brodo vegetale. Lasciate cuocere a fuoco lento con il coperchio. Aggiustate di sale e pepe e servite con un rametto di timo fresco o del prezzemolo tritato. Il grande cacciatore. Giungla dei momenti neri, cacciano i dubbi, cacciano i pensieri, e finalmente soli non hanno più paure, niente donne mangia uomini. Torniamo a parlare di rifugi, questa volta un rifugio per cavalli. La nostra filosofia consiste nel dare una seconda chance a ogni cavallo che arriva presso il nostro rifugio, una seconda possibilità di ricevere attenzioni e cure diversificate a seconda delle sue condizioni fisiche ed emotive. Tale filosofia appoggia sulla consapevolezza che i nostri cavalli in passato hanno dato tanto e a volte troppo delle loro energie vitali agli umani. Al rifugio di Aes, ciascun cavallo vive in un ambiente calmo ma appassionato e soprattutto circondato da umani che hanno considerazione e rispetto verso ciascun essere vivente. È questo il magnifico disclaim del profilo Facebook di Aes Place Onlus, rifugio del cavallo, che si trova a Montereale, Valcellina, in provincia di Pordenone. La nostra corrispondente da Roma, Francesca De Matteis, in trasferta nel nord-est, è andata a visitare questo posto per portarci un po' lì con lei. Sentiamo. Ci siamo con Evelyn al rifugio Isis Place, il rifugio del cavallo di Montereale Valcellina in provincia di Pordenone. Evelyn ha un rifugio meraviglioso circondato da montagne straordinarie e stamattina c'è un'aria frizzante perché ha appena piovuto. Ci facciamo raccontare da Evelyn come nasce questo rifugio e soprattutto scopriremo che non ci sono solo cavalli. Allora, nasce come allevamento del cavallo sportivo. Da lì ho cominciato a capire cosa succede ai cavalli sportivi, nell'agonismo, eccetera, e ho cambiato completamente in direzione e sono andato nel salvare. Quello che mi stanno più vicino al cuore sono ovviamente i vecchi inutili che non hanno una casa, che non la vuole più nessuno, e abbiamo anche un po' di case di maltrattamento e cavalli di situazione difficile. Abbiamo una mucca, 3 asinelli, 6 cani, 3 gatti, 4 galline, mi sa basta. E quali sono magari i casi per cui avete proprio corso per poter salvare questi animali? Boh, l'ultimo è arrivato a casa la mucca Rosalie, che era per terra e stava aspettando il camion del macellaio. Noi volevamo fare delle foto per trovare gli sponsor, non abbiamo avuto il tempo di farla perché ce l'abbiamo portato via direttamente. Un altro è stato la pony Josefina, che è stato un sequestro che è stato già rifiutato da un altro posto e l'abbiamo portato via perché secondo me in un giro di 10-20 ore sarà morta. Fondamentalmente quasi tutti hanno la storia del non siamo più utili, zoppica, non possono essere più montati, il proprietario non ha più voglia di spendere per le spese. Solo che adesso negli ultimi anni abbiamo anche noi problemi di fondi, dalla crisi dell'Italia è arrivato anche al rifugio e in conseguenza prendiamo solo casi estremi, diciamo di un morto un proprietario, di un divorzio o proprio un sequestro o un cavallo per terra. La notizia è intrigante e arriva da Torino. La 12ª edizione di Torino Spiritualità è dedicata quest'anno agli altri animali. Questa scelta ci è sembrata un po' bizzarra per il fatto che gli animali appunto vengono considerati separati dall'umanità, altro dall'umanità e aggiungeremmo anche inferiori rispetto all'umanità in quanto ritenuti incapaci di avere coscienza, di avere una mente e una vita spirituale. Il nostro Giuseppe Coco ha chiesto un chiarimento agli organizzatori su questo apparente nonsense. Dal 28 settembre al 2 ottobre 2016 si svolgerà a Torino e non solo Torino Spiritualità, la 12ª edizione che quest'anno si intitola Distinti Animali. Ne abbiamo parlato con colui che organizza questa manifestazione, che è Armando Buonaiuto. Torino Spiritualità è nato nel 2005 ed è una rassegna di 5 giorni che ogni anno si dà un tema diverso e intorno a quel tema cerca di costruire una riflessione quanto più articolata possibile, sia dal punto di vista dei contributi, degli ospiti, sia dal punto di vista dei format, perché proponiamo lezioni, dialoghi, spettacoli teatrali, mostre, laboratori. Insomma, cerchiamo di andare incontro a un pubblico variegato, offrendo tanti modi per analizzare un singolo aspetto del vivere. Da sempre il fulcro della nostra riflessione è l'uomo e in questi anni l'abbiamo analizzato sotto, credo, insomma, una grande vastità di prospettive. E proprio per questo, quest'anno qui, l'idea era di provare a cercare uno sguardo diverso per guardare a noi, cioè qualcosa che ci consentisse di gettare un occhio sull'uomo ma di sponda. E allora ci sembrava che lo sguardo che rappresenta la massima alterità rispetto a noi fosse lo sguardo dell'animale. E da lì nasce l'idea di distinti animali. Il titolo gioca un po' con questa ambiguità, perché nel dire distinti animali si può alludere al fatto che gli istinti animali fanno parte di noi, ma si può anche considerare questo distinti come l'elemento di separazione, perché l'uomo da sempre, per diciamo tonificare il proprio antropocentrismo, pone l'animale al di là di un confine, no? Lo separa da sé, lo rende qualcosa di distinto. Noi invece vorremmo provare a valicare questo confine in nome del fatto che un'animalità, un'istintualità animale riposa in noi, anche se noi a volte abbiamo l'impressione che questa cosa ormai sia evaporata, ma l'animalità è residua in noi e a volte vale anche la pena provare ad ascoltare la nostra parte più legata al mondo della natura. I nomi sì, sono tanti, quindi è difficile definirne uno sopra gli altri, ma diciamo io sono molto contento quest'anno di avere come ospite nostro a Torino Frans de Waal, l'etologo olandese, per via delle ricerche che lui ha fatto sulla moralità degli animali, che secondo me ha veramente offerto un punto di vista diverso dal quale osservare noi e loro. E lui viene a portare una lezione sul tema dell'intelligenza animale, una lezione che è già provocatoria nel titolo, perché si chiede: siamo abbastanza intelligenti da capire l'intelligenza degli animali? E quindi diciamo è una bella stoccata al nostro narcisismo di specie. Poi gli spettacoli, perché gli spettacoli offrono sempre la possibilità di dare una prospettiva diciamo anche più apparentemente svagata alla riflessione, ma poi di fatto comunque con degli approfondimenti. Per esempio quest'anno abbiamo questo spettacolo che si chiama Minima Animalia, con Elio di Elio le Storie Tese e con il pianista Roberto Prosseda, che insomma è anche un pezzo grossissimo, ed è uno spettacolo in cui proviamo a unire l'alto e il basso, cioè la raffinatezza dell'opera e della lirica con un contenuto apparentemente così banale come è quello dei piccoli animali, ma gli insetti, le zecche, i criceti, cioè tutto ciò che apparentemente per noi è il massimo del consueto. Invece su questi animali verranno composte e cantate delle arie liriche e a loro verranno dedicati dei componimenti pianistici, insieme poi anche a pezzi di opere più famose. Però insomma il fulcro è proprio il minimo animale, ciò che è piccolo ma prezioso. Il tema musicale della puntata è la caccia in tutte le note e declinazioni, dai Cure a Vivaldi. Mentre per lo spazio musicale lo dedichiamo al tema di Torino Spiritualità, con una canzone del 1999 cantata da Dolores O'Riordan, che era la leader dei Cranberries, che parla proprio di istinti animali. Quindi un tuffo nel recente passato e nella nostra parte più spirituale, ascoltando Animal Extinct. Buon ascolto. Ma prima dei saluti, come sempre, ricordiamo le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata e che sono state Giacomina, Mirtilla, Armando Buonaiuto, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Evelyn, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci e dal microfono cari saluti da Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.